Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts. Jazz on megahertz. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascoltiamo tre tra le novità più interessanti di quest'anno di musicisti italiani. È interessante vedere come nello stesso ambiente nascano dei lavori veramente di livello notevole. Sono anche abbastanza frequentemente gli stessi musicisti che lavorano in un gruppo o in un altro. Diciamo che il polo di riferimento si può considerare il Gallo Roco, questa etichetta discografica, che però è anche un po' una situazione creata da due musicisti, Zeno De Rossi e Danilo Gallo. E intorno a questa etichetta discografica, che incide, ma insomma diventa anche una sorta di motore di elaborazione anche di nuovi talenti e di sperimentazioni, anche di incontri con musicisti importanti, soprattutto dell'area newyorkese. Penso per esempio a Ralph Alessi oppure a Chris Speed. Ecco, sono almeno tre, questa almeno è la scelta che ho fatto, di lavori di grande livello quest'anno. Hanno un punto di riferimento in comune, questo è un musicista decisamente tra i più interessanti dell'ultima generazione, perlomeno di una generazione che si è già avuto già il tempo di sperimentarsi e di maturare artisticamente, che quindi adesso si pone sotto un profilo di maturità e di piena capacità di proposta. Si tratta di Pietro Bittolobon, appunto, che suona in tutti e tre questi lavori, quindi a conferma di quanto dicevo prima. E un altro musicista che troveremo in due di questi lavori è Domenico Caliri, chitarrista, anche lui compositore, organizzatore di performance, quindi di alto livello. Ma cominciamo però dal primo, il meno conosciuto sicuramente, nonostante più o meno abbia la stessa età degli altri, forse un tantino più giovane, comunque è quello che ha al suo attivo un po' meno produzioni discografiche. Si tratta di Nelide Bandello, batterista, compositore, si propone con l'etichetta Il Gallo Roco con un lavoro intitolato, un quartetto intitolato Tritolo, un quartetto dove vede, oltre al suo lavoro alle percussioni, Enrico Terragnoli alla chitarra, Stefano Senni al basso e Pietro Bittolobon al sax baritono o contralto. Ascoltiamo un paio di lavori, un paio di composizioni di questo buon disco, uscito appunto per l'etichetta Gallo Roco. Thank you. Thank you. Questo era Nelide Bandello, il quartetto, con questo ultimo lavoro uscito poche settimane fa, Bar Tritolo, una formazione interessante, soprattutto un livello compositivo maturo, molto, molto caratterizzato. Peraltro il linguaggio jazzistico che viene usato è molto aggiornato, molto legato a quello che viene ormai più recentemente sperimentato nell'ambito newyorkese, ed è questo rapporto nuovo, più intenso, più, forse anche più maturo, più profondo, tra il jazz, tra il linguaggio prettamente jazzistico e quello che è stata l'esperienza di un certo tipo di rock, quantomeno. Nuovo lavoro, l'altro, la prossima proposta è di Domenico Caliri. Domenico Caliri, chitarrista, compositore, decisamente con ottime capacità anche di direzione d'orchestra, ha guidato un progetto diversi anni fa ormai per Angelica, un concerto che venne fatto per un progetto di Angelica che venne fatto per la prima volta appunto a Bologna. Poi finalmente è riuscito a pubblicarlo in una registrazione discografica. Questa risale a un paio di anni fa, è uscito il disco, è uscito nelle ultime settimane anche questo, ma è registrato alla fine del 2012 a Udine, in provincia di Udine, e appunto testimonia questa bella pagina di musica scritta, di musica strutturata. Soprattutto è interessante proprio la narrazione, una sorta di suite, questa camera lirica, questa è la composizione, e appunto Domenico Caliri tra l'altro guida una formazione di piccola orchestra fatta da tutti i personaggi di alto profilo, oltre appunto a Pietro Bitolo Bon, che abbiamo ascoltato anche nel disco precedente, che suona sax alto, clarinetto e varie anze, anche Guido Bombardieri, sempre alle anze, Christian Thoma all'obo e al corno inglese, Francesco Bigoni al sax tenore, clarinetto anche in questo caso, oltre che anche Beppe Scardino al sax baritono e clarinetto basso. Quindi un po' tutti i nuovi talenti del sax italiano che si ritrovano in questa registrazione, in questa performance. Poi Glauco Benedetti alla tuba, Pasquale Mirra al vibrafono, oltre alla chitarra di Caliri, un'altra chitarra che è quella di Fabio Costantini. Poi un altro personaggio di punta ormai sulla scena italiana e non solo, Alfonso Santimone al pianoforte. Poi Francesco Guerri al violoncello, Federico Marchesano al basso elettrico e Federico Scettri alla batteria. Quindi una formazione piuttosto ricca anche per il tipo di timbrica che naturalmente si può immaginare, anche visti gli strumenti che ho appena citato. È un lavoro interessante che appunto si può benissimo porre tra quella che ormai comincia ad essere una lunga esperienza, una esperienza piuttosto allargata delle formazioni orchestrali europee, che hanno un tipo di narrazione, una fisionomia, perlomeno proprio anche nella modalità di costruzione del linguaggio jazzistico, che risente poi delle connotazioni territoriali. Quindi in questo caso appunto sicuramente l'influenza è quella della musica italiana. Ascoltiamo alcuni brani, alcuni momenti di questa camera lirica. Veramente notevole questo lavoro di Domenico Caliri, questo progetto Camera Lirica, che ha visto finalmente la realizzazione, la registrazione in disco ed è stato pubblicato recentemente per un'etichetta discografica che è quella praticamente di proprietà di Domenico Caliri, appunto si chiama Caligola, l'etichetta quindi Caligola. Veramente un lavoro ottimo questo. Come peraltro un ottimo lavoro è anche il prossimo disco che ascolteremo, è l'ultimo lavoro di Pietro Bittolo Bon con il suo progetto Jump the Shark. E con questo progetto è il terzo lavoro che esce, sempre per il Gallo Roco, ed è intitolato, quest'ultimo lavoro, intitolato Juvenes Dom Sumus. Il gruppo, la formazione, è un sestetto, oltre a Bittolo Bon, appunto, le varie anze, sax contralto, clarinetto alto e flauto, e Gerard Schloss al trombone e al sousaphone anche, Pasquale Mirra al vibrafono, Domenico Caliri, quindi ancora una volta, un incontro molto fertile, e alla chitarra elettrica e acustica, poi Danilo Gallo al contrabbasso e Federico Scettri alla batteria. Quindi anche in questo caso un sestetto dove la caratterizzazione del trombone oppure sousaphone e del vibrafono e danno già appunto la cifra dell'aspetto stilistico che può essere seguito. Come nei lavori precedenti si avverte una piena maturità di confronto, a questo punto non si può parlare di influenza, ma una piena possibilità di confronto, lavorare sullo stesso piano di quello che accade appunto nell'ambito oltreoceano, soprattutto nell'ambito della Grande Mela. Un lavoro decisamente molto ben riuscito, composizioni sempre ben costruite, e quindi anche il percorso di tutto il disco è di brani che si alternano in pieno equilibrio sul risultato artistico di alto livello che ne deriva. Ascoltiamo alcuni di questi brani presi da questo lavoro uscito anche in questo caso nelle ultime settimane, si può dire. Thank you. Thank you. era il sestetto di Pietro Bittolo Bon nell'ultimo lavoro, uscito per il Gallo Rocco recentemente, Juvenes Dom Sumus. Peraltro si avverte evidentemente un'influenza forte della musica di Tim Berne e sembra quasi in certi momenti una sorta di omaggio anche a quello che è il mondo espressivo di Tim Berne, questa sorta di piani armonici, di contrapposizioni, di disegni ritmici molto stretti che hanno una tessitura lunga, una narrazione che non sembra non concludersi mai. Però appunto il risultato è decisamente di alto livello, quindi ormai una maturità artistica di Bittolo Bon che decisamente si fa notare tra le voci più interessanti, non soltanto a livello italiano, ma anche quantomeno europeo. Questo era l'ultimo ascolto per oggi, quindi vi ricordo che l'intera trasmissione e anche tutte le informazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione playlist. Questo è tutto, salve, alla prossima. Sal peanuts. Jazz on megahertz. Sal peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Thank you.